palla ovale. Buonasera a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunta in regia. Via dal rugby come ogni sabato per poi divagare su altri sport e altri temi. Come nella Serie B di calcio, di cui ho detto i risultati, poi lo rifarò comunque nel corso del giornale radio, anche nel campionato di rugby cadono le prime due della classe. Questi risultati un po' sorprendenti, con Rovigo che si conferma in grandi condizioni e batte Viadana 24-23. Finisce in volata anche il derby di Roma, con la rimonta finale del Futura Park sull'Almaviva Capitolina 14-13, ma perde anche il Benetton Treviso in casa con l'Over Maccari Parma 27-9. Il Gran Parma invece batte il Casinò Venezia 26-15. Questi dunque i risultati della giornata, ma andiamo subito per il match di cartello ed è quello di Treviso con Parma Corsara, con l'Overmac Corsara. Ennio Grosso, buonasera. Buonasera a voi, è una partita sì, è Parma Corsara, non ha rubato nulla, Parma bisogna subito dirlo, anche se ha fatto tutto Treviso nel bene e nel male, soprattutto nel male. Ha subito tre mete con palla in mano, due intercetti di Parma nel primo tempo, in due minuti, oltretutto due mete di due mete, la prima di Travagli e la seconda di Gilberto Pavan, e un Treviso che è molto inconcludente in attacco, ha subito due mete nel giro di due minuti, dicevamo 14-6 nel primo tempo e poi nel secondo tempo più o meno sulla stessa falsariga del primo tempo, un'altra meta con palla in mano di Treviso, un calcio un po' avventato di Williams, l'estremo Rubini del Parma, presa palla, è riuscito a penetrare nella difesa di Treviso, 3-0, 27-9 risultato, nulla da dire, Parma non ha rubato nulla, anzi, ma Treviso deve un po' recriminare sui propri errori soprattutto. Treviso come Penelope, caro Ennio. Per chiudere, azzurri e azzurrabili, come hanno giocato? Marcato ha giocato 60 minuti, non una bella partita, d'altra parte Treviso non c'è molto da salvare oggi, però non era certamente marcato l'uomo su cui lanciare la croce. È difficile trarre delle conclusioni dopo una partita del genere, perché è stata una partita molto brutta, arbitrata oltretutto non bene. E non si è visto molto in campo, sinceramente. Grazie a Ennio Grosso, dunque da Treviso, per questa sconfitta del Benetton. In classifica Treviso che rimane a 21, Montepaschi che resta a 20, sale l'Over Maccari Parma a 19, quindi Femici Z 18, Cammi Calvisano 17, Petrarca e Futura Park sorpresa di questo avvio di stagione a 12 punti, Casinò di Venezia 10, l'altra Parmigiana, il Gran, a 9, l'Almaviva Capitolina rimane ultima con 2 dopo aver a lungo accarezzato il sogno di vincere il derby. Ho fatto la domanda a Ennio Grosso perché abbiamo già un ascoltatore interessato, cioè il braccio destro di Nick Mallett, e gli azzurri tra una settimana sono in campo per riempire tre stadi in tre grandi città, come ha detto il presidente Dondi. Carlo Checchinato, buonasera. Ciao Carlo. Buonasera a voi. Aspettiamo appunto a partire da sabato prossimo un'Italia da tutto esaurito, come dice il presidente Dondi, come sottolinea il presidente Dondi, in tre grandi città, due delle quali, Torino e Reggio Emilia, non sono città rugbistiche per il momento. Attività di vertice e di base, sempre come dice Dondi, forti, molto forti, ancora più forti, aspettando quei famosi tagli previsti dalla finanziaria e capendo cosa porteranno. Carlo, manca come al solito, è debole come al solito la fascia di mezzo, quella dei club. Io adesso sono a Rovigo in questo momento, dove ho assistito alla partita Rovigo-Viadana, è stata una partita interessante, una partita piacevole da vedere, sia per l'intensità agonistica sia per i contenuti tecnici che si sono visti in campo, per cui sicuramente il livello di club soffre molto quando va a competere in Europa, specialmente in anni che in capo è la Champions, l'equivalente della Champions, sì. League, ma questo è evidente, però la partita che ho visto oggi, ho visto una partita interessante con i giovani italiani che erano in campo, che hanno espresso dei contenuti tecnici agonistici di qualità. E quindi credo che forse vada ripensata un po' la composizione un po' di queste squadre, perché se squadre che si sono piene di stranieri non riescono a essere competitive in Europa, tanto vale che si facciano giocare i nostri ragazzi e che si dia spazio a loro, e questo forse in una prima fase sarà un rallentamento, se certo. Ci vuole probabilmente dei contenuti tecnici, ma nel lungo periodo credo che paghi e credo che dia una maggior profondità al movimento rugbyistico italiano, questa è la mia convinzione. Ma anche la mia, nulla da eccepire a questo proposito. Invece Carlo, in chiave azzurra quali risposte da queste tre gare? Con Australia che tra l'altro ha perso con la Nuova Zelanda nella notte a Hong Kong, una partita splendida quella giocata dagli australiani che vincevano addirittura 14-3 contro gli All Blacks, e poi hanno subito la rimonta 14-9 alla fine del primo tempo sempre per l'Australia, che poi ha pagato nel secondo tempo 19-14 il finale. Prima avversaria nostra sabato al Euganeo di Padova. Quali risposte da questi tre test match? Le risposte non le so ancora. Ma quali chiediamo, Carlo? Ti posso dire che ti chiediamo di continuare a voler vedere un'Italia che è competitiva e che va in campo ogni partita che gioca cercando di sfidare l'avversario e di metterlo in difficoltà con tutti i mezzi. Sicuramente l'Australia è un avversario probabilmente sulla carta al di fuori della nostra portata, e questo ne siamo consapevoli, ma non per questo partiamo sconfitti in partenza. Giochiamo in casa, ritorniamo a giocare nel Veneto, dove tanti giocatori sono nati di questa nazionale, davanti a uno stadio che sarà tutto esaurito, l'Euganeo di Padova, sabato prossimo. Quindi io mi attendo che dal punto di vista dell'atteggiamento della nostra squadra sia sempre quello che ha dimostrato durante tutte le Sei Nazioni, forse non nel secondo tempo contro il Galles, ma durante tutte le partite che ha giocato dall'inizio di questa stagione, sono state incentrate su questo aspetto, cioè il voler sfidare tutti, il volersela giocare fino alla fine. Poi se come è successo due volte siamo un po' più bravi degli altri, vinciamo bene, sì. se no l'avversario sarà più forte e faremo tesoro degli errori fatti e miglioreremo la volta seguente. Questo tour di novembre comunque sarà impegnativo, perché tre partite di seguito è un po' di tempo che non le giochiamo, perché anche se Nazioni comunque c'è una settimana di pausa, sì. Quindi questo può essere un po' usurante alla fine, ma sono convinto che questo succederà sia per noi che per i nostri avversari, per cui non è un attenuante. Penso che vedremo del buon rugby, una squadra che è in crescita e che avremo un po' il polso di situazione dopo aver giocato, ovviamente. Certo, Carlo, per chiudere, si va con Canavosio marcato in mediana, che è il nostro tasto dolente storico negli ultimi anni. Capiremo in questi tre test match se può essere la cerniera per i Sei Nazioni, oppure ancora presto per scelte così definitive in prospettiva Sei Nazioni? Già sono le Sei Nazioni scorso, Nica ha dato la fiducia a Masi per 5 partite e poi sono state fatte delle valutazioni che non dettate solo dal risultato del campo, ma anche da come il giocatore sentiva giocare in un ruolo che non fosse proprio, e sì. Quindi sono stati apportati dei cambiamenti. Adesso, come ha detto Nick ieri, la mediana sarà molto probabilmente Canavosio marcato per queste tre partite, e quindi c'è la massima fiducia in questi due giocatori, come c'è la fiducia in tutti quelli che fanno parte della rosa di 26, per vedere poi dopo partita per partita quello che è la risposta che viene data dal campo. Certamente in questa posizione non abbiamo tante alternative, però sono convinto che due giocatori come Canavosio e Marcato insieme a Antonio Latti o Travagli, che ancora non è nella rosa ma comunque è dietro l'angolo, sì. o le altre soluzioni che avremo, saranno soluzioni sicuramente dignitose e di qualità per la nostra squadra. Però certamente il numero 9 e il numero 10 sono l'ago della bilancia di tutte le squadre, per cui ha maggior ragione per la nostra. Carlo, buon lavoro a voi, grazie, buona serata. Grazie a Carlo Checchinato, in bocca al lupo. Ovviamente saremo qui sabato prossimo a parlare ampiamente di Italia-Australia e dell'avvio di questo trittico di test match che, ripeto, Italia-Australia, quindi una settimana dopo Italia-Argentina a Torino. Per chiudere il 22 novembre con Italia Pacific Island a Reggio Emilia, avremo tre tutti esauriti, a testimonianza del fatto che il rugby in chiave azzurra è come se tira. Palla ovale. Torcida brasiliana che esulta, siamo soltanto però nel Q1, quindi all'inizio delle prove che valgono una griglia di partenza per domani, perché Massa ha appena superato Hamilton nella corsa verso la pole position, 1:11:830 il tempo di Massa. Si corre, questa è già una notizia, sotto il sole dopo l'incertezza e la pioggerellina di ieri e anche di questa mattina, cielo si è aperto e quindi si corre sotto il sole, temperatura che si va alzando. Siamo a a 1 minuto e 56 dalla fine del Q1, della prima parte delle prove. Siamo invece nelle ore che precedono l'avvio della signora delle maratone, cioè quella di New York, e abbiamo in linea Giorgio Rondelli. Ciao Giorgio. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Giorgio, la regina delle maratone, a me è quella che affascina di più, magari ce ne saranno di più difficili, di più probanti, però questa è quella che, insomma, vedendo quello sfondo mi fa battere il cuore. Onestamente, nell'anno olimpico cosa propone a livello di agonisti, ovviamente? Beh, parliamo anche degli altri. A livello di agonisti propone soprattutto una grande gara femminile con Paula Radcliffe, che ha avuto varie sfortune olimpiche da Atene all'anno scorso a quest'anno, che aveva anche, era reduce da una microfrattura, che cercherà di una vittoria importante per il morale, però dovrà fare i conti con altre grandi atlete, l'etiope Vami, la keniana Ndereba, e poi attenzione anche questa americana Kara Goucher, annunciata in gran spolvero, è all'esordio nella maratona, ma ha fatto grandi tempi sui 10.000 e anche sulla mezza maratona, quindi sicuramente sarà spinta da un tifo incredibile nella maratona, che è davvero la numero uno al mondo. In campo in campo maschile c'è ancora Tergat, che va ormai per i 40 anni, contro Gumri, brasiliano dos Santos, e poi tutta una schiera di atleti keniani, Kirui, Rono, Macharia, Rotich, Kigen. Un difficile pronostico, più difficile in campo maschile. Se la Radic fino al 100% potrebbe spuntarla, perché è una grande agonistica, ma lo spettacolo non sarà sicuramente solo quello dei grandi atleti. Ci saranno in gara 40.000 praticamente persone, addirittura ci saranno 4 partenze. Alle 15.10 le donne, alle 15.40 gli uomini, parliamo dell'elite, e poi addirittura alle 16.20 partirà l'altra massa di tantissime persone, fra cui quasi 4.000 italiani. Sì, sì, un sacco di italiani che poi potranno magari anche rivedersi, no? Registrando. Tu domani commenterai la diretta per Eurosport? Sì, dalle 15 alle 18, a quell'orario saremo l'unica emittente che in pratica seguirà un po' tutta la manifestazione. Fra i cosiddetti big non ci sarà Prodi, che no, ha qualche problema fisico, assenza dell'ultima ora. Assenza dell'ultima ora. In compenso ci saranno Laura Fogli, Cassani, l'onorevole Lupi, Linus e lo zio Bergomi. Linus è quasi un professionista, il collega Linus. Sì, Linus è un professionista, Bergomi un neofita, ma appunto anche lui a correre sotto le 4 ore. In una gara che effettivamente ha un fascino straordinario, e la spinta agli italiani l'ha data sicuramente le tre vittorie degli anni 80, le due di Pizzolato e di Poli, poi c'è stata la vittoria nel 96 di Giacomo Leone, nel 98 Franca Fiacconi. Non ci sono atleti italiani di punta, e a conferma del trend negativo del nostro movimento, che tra l'altro anche un po' sicuramente condizionato dal fatto che ormai Baldini non farà più la maratona, correrà ancora un anno soltanto su gare su strada più corte, quindi un movimento a livello italiano da rilanciare, trovare nuovi protagonisti, ma non sarà facile perché c'è un buco generazionale di 10 anni. Certo, guarda, proprio in questo momento esce un'agenzia, New York, grande mela, corre contro la crisi e verso il voto. È una maratona anche dai mille significati, e tra l'altro in questi giorni sarà doppio e rosso il filo che collegherà Radio 24 agli Stati Uniti, non solo per eventi sportivi ma anche e soprattutto per le elezioni presidenziali. Mescoleremo anche le cose domani, già ve lo dico, collegandoci con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro inviato Sergio Nava, che guarderà le partite insieme ad elettori americani. Insomma, sarà qualcosa di divertente e di inedito anche per il nostro programma. Giorgio, voglio chiederti ancora questo: una maratona che sta diventando comunque sempre più simbolica, no? Tanto che i VIP stanno pian piano rubando la scena ai professionisti veri. Non so, Victoria Beckham se correrà la maratona, si dice di sì, mascherata, non mascherata, irriconoscibile, ma francamente mi importa poco. Più interessante è la storia di Zola Budd, se vogliamo. Beh sì, Zola Budd, grande atleta degli anni 80, sudafricana, correva a piedi nudi, poi sta anche campionessa mondiale di cross, poi per partecipare a Los Angeles aveva preso la cittadinanza britannica, poi lì anche un pasticciaccio nei 3000 aveva fatto cadere anche Mary Decker, che era la grande favorita. Era la grande favorita, sarà il via con peso col marito e i tre figli, una delle tante storie. Quello che hai detto prima è vero, un po' è anche, insomma, non so se dirti grave, cioè attira sicuramente attenzione al mondo della maratona tutti questi VIP, e qualcuno, qualche VIP, tutto sommato ci marcia un po' su, certo fa fatica per preparare la maratona, ma qualcuno sta avendo dei ritorni di immagine o degli spazi che altrimenti non avrebbe. Sicuro. E comunque la maratona credo rimane comunque quel grande, la grande sfida a se stessi, dove allinea sulla linea di partenza il campione olimpico e anche l'amatore di tutti i giorni, forse è questo diciamo il suo fascino. Poi New York ci mette anche qualche cosa di extra, è diventata un po' la gara un po' alla moda, insomma. La gara più, la maratona più senz'altro più modaiola del mondo, poi rimane anche la più affascinante. Giorgio, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Rondelli, ma noi restiamo negli Stati Uniti, dove, ripeto, domani abbondantemente torneremo per rimanere a New York. Simone Sandri, buonasera. Buonasera Carlo. Non farai la maratona tu, no? Quest'anno no, l'ho fatta diversi anni fa quando ancora giocavo a calcio, giocavo a calcio in maniera seria ed ero... Eri un po' più allenato. Ero un po' più allenato, però devo dire che qui c'è sempre un'atmosfera molto particolare, soprattutto a me la cosa che piace della maratona di New York non è tanto l'aspetto competitivo, perché alla fine l'aspetto competitivo per quanto riguarda i professionisti ovviamente, quelle sono analisi che poi valgono per la maratona di New York come per altre. La maratona di New York ha un fascino particolare proprio per il fatto che c'è una città che si svuota, che va in tutti i quartieri più strani, più magari poco visitati, come può essere quelli di Brooklyn o del Bronx, e va in strada a incitare il signor Nessuno che fa magari la maratona in 5 ore e che ha questo straordinario supporto dalla folla, e lo dicono tutti, io stesso quando l'ho fatta ho potuto testimoniare, è veramente c'è un incitamento straordinario, ed è per questo che la selezione la si fa sul ponte che dà... su Queensboro Bridge, quello che rientra a New York, perché praticamente c'è questa sensazione stranissima, questa folla che ti trascina, e nel momento più difficile, quando passano si arriva al 30° chilometro, ci sono questo lunghissimo ponte in cui c'è un silenzio assurdo, perché un minuto prima c'era questo rumore straordinario della folla, ed è lì che diventa difficile fare i conti anche con il cervello e con la fatica, Simone. C'è la linea un po' disturbata con te laggiù a New York. Adesso proviamo a ripristinarla rapidamente. Intanto sentiamo, ci fermiamo un attimo anticipando un blocco pubblicitario, poi torniamo a collegarci con Simone Sandri, con cui vogliamo parlare sì di maratona, ma anche e soprattutto della notte NBA che abbiamo visto e che ha portato in campo i due italiani nel derby, nel faccia a faccia, Bargnani e Belinelli, con Bargnani che ha giocato una gran partita e ha vinto con Toronto, con Belinelli che, come al solito, la partita l'ha guardata in seduto dalla panchina senza mai alzarsi. Ma ci sono stati anche i primi punti americani per Danilo Gallinari, dunque notte NBA con motivi di grande interesse. Palla ovale. A proposito di maratona di New York, c'è anche che scrive: come non ci sono italiani di punta? Cruciani non corre, forse vola in quanto zanzara. Deve essere qualche parente del mio amico Giuseppe, conduttore della zanzara, con cui ci collegheremo peraltro domani sera dopo la maratona e dopo soprattutto Milan-Napoli. Ma adesso abbiamo di nuovo Simone Sandri in linea da New York, dovremmo aver ripristinato la comunicazione senza problemi. Simone, ci sei? Sì. Certo, eccoci, rieccoci. Risultati della notte, dunque, NBA, c'era il derby tra i due italiani, Toronto-Golden State, vince Toronto 112-108, doppi supplementari, Bargnani gioca una gran partita, Belinelli al solito la guarda. Sì, innanzitutto sono due discorsi diversi. Andrea, che adesso fa il sesto uomo di una squadra molto talentuosa con l'arrivo di Jermaine O'Neal, ha cambiato modo di giocare rispetto all'anno scorso, perché gioca molto più dentro l'area e combatte molto, e forse la cosa che il suo tallone d'Achille negli anni passati era proprio il fatto che era un pochino soft, come si diceva, queste parti sotto canestro. Adesso invece combatte, gioca in maniera molto intelligente, è spesso nella zona pitturata, ha fatto un'eccellente partita, 19 punti, 5 rimbalzi, e soprattutto ha capito che per avere successo nell'NBA lui deve giocare tanti minuti vicino al canestro, perché vicino al canestro può essere devastante, anche perché se incomincia a giocare vicino al canestro e a migliorare vicino al canestro, poi non ha certo problemi a uscire, a tirare da tre lui a un posto ordinario, per cui sicuramente da questo punto di vista ha fatto dei grossi progressi e io prevedo una ottima stagione per Andrea. Per quanto riguarda Marco, peraltro gli ho appena parlato, è sicuramente deluso perché le aspettative erano ben diverse, perché Don Nelson aveva detto che sicuramente, soprattutto grazie all'assenza di Monta Ellis, Marco avrebbe giocato diversi minuti, una quindicina di minuti di media partita, soprattutto in queste prime partite. Mi sembra veramente assolutamente assurdo, considerato il roster che ha e soprattutto di alternative che ha per quanto riguarda le guardie, Don Nelson, che Bellinelli non veda il campo. Mi sembra veramente una scelta inspiegabile. Sì, tra l'altro Bellinelli che ha appena rinnovato per altri due anni il contratto con i Warriors. Sì, è stato quel rinnovo è abbastanza automatico, perché il rinnovo della prima scelta si chiama team option, cioè la squadra ha l'opportunità di rinnovare automaticamente per una scelta così alta come Bellinelli, è abbastanza automatico. Non è, diciamo, un segnale di fiducia totale questo. Certo è che durante la Summer League e durante la pre-season Nelson ancora una volta ha detto che sarebbe stata l'annata di Bellinelli. Se noi consideriamo comunque che le guardie di Toronto le guardie di Golden State sono DeMarcus Nelson e CJ Watson, giocatori da D-League, non delle stelle, assieme a Corey Maggette, che è sicuramente un giocatore eccellente, e Marco Bellinelli sicuramente i minuti li può conquistare questi due giocatori. Mi sembra abbastanza assurdo che giocatore comunque dal talento di Bellinelli non possa almeno competere per qualche minuto, per una decina di minuti, con gente come CJ Watson. Ma certo, è una cosa inspiegabile, anche perché ne parlavamo anche ieri con Dan Peterson, no? Le ultime tre partite, quindi non ad agosto, neanche a settembre, ma le ultime tre partite di pre-season hanno visto Bellinelli in campo 43 minuti segnando 22 punti, poi è sceso progressivamente il minutaggio, inizia la stagione e questo non si alza dalla panchina. Sa un po' di prevenzione nei suoi confronti da parte di Don Nelson. Dan Peterson è stato anche più duro parlando di qualche problema di qualche problema di Don Nelson, insomma, nel dimenticarsi di Bellinelli sempre in panchina. Simone, invece, Gallinari, 7 minuti e 51, New York perde a Philadelphia, Malgallo dopo i primi 3 minuti nella prima partita stagionale, senza punti, ne mette 2 stavolta e soprattutto resiste in campo un po' di più. Sì, è vero, bisogna dire che innanzitutto era quando è entrato Danilo, a differenza della prima partita che era punto a punto, a Philadelphia, a New York è uscita dalla gara già all'inizio del secondo tempo, per cui quando è entrato all'inizio dell'ultimo quarto era già una partita più o meno compromessa. Certo che fa ben sperare, ovviamente, vedere Danilo che segna i suoi primi punti, soprattutto il fatto che Mike D'Antoni, comunque, anche se Danilo non sta ancora bene, lo voglia schierare apposta per dimostrare a tutti, alla squadra e ai compagni soprattutto, il fatto che lui su Danilo Gallinari punti in maniera importante. Devo dire che però, vedendolo giocare, sicuramente Danilo non si muove in maniera naturale, soprattutto quando fa movimenti con le gambe in difesa, quando deve muoversi da destra a sinistra, si vede che fa fatica. I problemi alla schiena sono veramente brutti per un giocatore di basket e Danilo purtroppo non è al meglio. Non essendo al meglio, già ci sono ovviamente i problemi classici che un rookie ha nell'inserirsi nel giocare contro giocatori di un atletismo spaziale come quelli dell'NBA, in più se aggiungiamo i problemi alla schiena non è proprio la situazione migliore. Per sperare in un buon rookie year per Danilo devono assolutamente passare questi problemi alla schiena, però sarà veramente difficile che possa dare un contributo importante. Simone, per chiudere, una curiosità, visto che ho un SMS che, insomma, a cui non so rispondere, chissà se riesci ad aiutarmi tu. Ritornando alla maratona, discorso in cui abbiamo aperto, è confermato, domanda un ascoltatore di Lodi, è confermato il divieto di usare l'iPod alla maratona? Si diceva fosse considerato doping, questa mi mancava. Questa manca anche a me. Manca anche a te. Però devo dire che quest'anno c'è stato senatore dello Stato di New York che ha cercato di far passare una legge per il quale non fosse possibile attraversare la strada con l'iPod, perché si considerava una situazione troppo pericolosa, per cui magari non mi stupirei da questo punto di vista. Mi sembra veramente un'assurdità totale, però ce ne sono diverse di assurdità totali a volte nelle leggi americane, per cui non più di tanto. Se questo è doping, però, se l'iPod è doping, allora per quello vero diamo l'ergastolo. Esatto. Grazie Simone, alla prossima. Grazie a Simone Sandri da New York. Dunque, adesso vi ripeto, l'ho fatto prima nel GR ormai parecchio tempo fa, vale la pena di dare una rinfrescata alla memoria, magari qualcuno lo sa ancora, risultati finali di oggi in Serie B. Con le due capoliste che cadono, il Grosseto a Mantova 2-1 e l'Empoli in casa con l'Ancona 3-1, si avvicinano alla vetta il Vicenza 0-0 a Salerno e il Sassuolo 0-0 ad Avellino. E il Bari sempre a quota 20, 1-0 al Pisa. Modena Cittadella 3-3, Piacenza Parma 1-1, Treviso Albino Leffe 1-1, Triestina Frosinone 2-2. Ma tra 20 minuti ormai, poco più, c'è in campo già l'Inter a Reggio Calabria, una partita strategicamente molto importante, credo, per l'Inter e per Mourinho. Soprattutto questa sera c'è la Juventus che può dare il colpo di grazia ad una Roma che, sentendo parlare ieri Spalletti, mi è sembrata un po' sull'orlo di una crisi di nervi. Poi tocchiamo anche gli argomenti del campionato, ma la notizia della settimana calcistica, secondo me, è un'altra e non potevamo che convocare una grande penna per commentarla, come Roberto Beccantini. Ciao Roberto. Buon pomeriggio a voi. La notizia della settimana è naturalmente Maradona CT dell'Argentina, secondo me. Sì, mi sembra un po' una follia. Ti sembra una follia? Sì, mi sembra una piacevole follia, perché a Diego voglio molto bene. Gli ha dato tanto, poi ha avuto questa vita martoriata per colpe anche, intendiamoci, sia ben chiaro. Però insomma, non vogliamo fare i sapientoni, restiamo al calcio. Certo, il fatto che dietro le spalle abbia Carlos Bilardo è una bella cosa. In pratica hanno vinto i reduci dell'86. Cioè, sì, anche troppi secondo me. Sì, infatti, è una squadra in cui ancora una volta ci sarà dietro le quinte Bilardo e davanti Maradona, come in Messico, solo che purtroppo per l'Argentina non proprio in campo. Sì, no, leggevo anche oggi che si uniscono al clan, oltre a Bilardo e Troglio come nei giorni scorsi, si aggiungono al clan anche Batista, Brown e Battista, sì, mi sembrano un po' tanti, un po' affollata quella panchina. Infatti è una conduzione familiare proprio di nome e di fatto. Ovviamente ci mette la faccia Maradona e vedremo. Però l'Argentina, insomma, tutto sommato ha fallito, era grande favorita nelle ultime due edizioni dei mondiali, alla luce anche di quella di quello che riusciva a produrre a livello. Una delle, però comunque veniva da due successi olimpici dopo l'Olimpiade di Atene, ecco. Diceva: beh, questa squadra non può che crescere con qualche senatore. Provare a vincere il mondiale, non ce l'ha fatta Bielsa che era uno stratega ferreo, non ce l'ha fatta Alfio Basile, adesso con Maradona forse è una strada completamente diversa, forse anche troppo diversa, però c'è chi la batte sull'esperienza. Io guardo Klinsmann, Van Basten e Dunga, che giocavano ai tempi di Maradona, sono saliti sulla panchina della nazionale, tutto sommato malissimo non hanno fatto o non stanno facendo. Sì, infatti non esiste una legge certa e universale su questo versante. Platini fece bellissime eliminatorie, esatto, agli europei del 92, 8 vittorie su 8, poi naufragò nella prima fase. Beckenbauer, che però non era un attaccante, ha vinto il mondiale tanto da giocatore che da CT nel 90, quindi insomma, per fortuna di Maradona non esiste una legge scritta e vedremo. Certo, sono sincero, è una notizia che mi ha colto di sorpresa. Roberto, invece, parlando della Juventus, tre indizi fanno una prova forse: Real, Torino, Bologna. Stasera vediamo con la Roma. Sì, il problema è che per la Juventus, dopo tutti gli indizi che avevano fatto le controprove, sì, adesso ce ne vogliono tante di prove per recuperare il terreno perduto, vista la ressa che si è creata davanti. Gioca contro la Roma senza Totti, una Roma che in trasferta ha sempre perso, 4 gare su 4, come sottolineavi tu, non attraversa un grande momento, un grande periodo, sarà sicuramente più fresca perché non ha giocato mercoledì causa di un bifragio contro la Sampdoria, però nello stesso tempo magari sempre scossa, perché si vedendo la classifica si scoprirà ancora più in basso. E poi a differenza della Juventus, che andrà a Madrid verosimilmente in una situazione di sufficiente agio, contro il Chelsea, che fra parentesi sta demolendo il Sunderland 5-0 all'80esimo, si giocherà tutto martedì all'Olimpico. Sentendo parlare Spalletti, hai avuto anche tu l'impressione che sia una sì, Roma un po' su una crisi di nervi? È una situazione molto delicata. I problemi di Totti, gli infortuni, il mercato, quello che come al solito quando le cose vanno male viene fuori di peggio dallo spogliatoio. È un periodo molto molto difficile. Ha fatto bene Rosella Sensi a intervenire materialmente dentro la crisi. Mi auguro che non tanto stasera, perché è chiaro che ma soprattutto martedì sera il pubblico della Roma sia vicino alla squadra, perché è comodo tifare quando si vince, quando le cose vanno bene, si fanno quattro zitti a casa, però è quando le cose vanno male che ci vuole proprio l'unità, al di là di quelli che possono essere stati anche gli errori previsti, denunciati a tempo debito e magari comunque compiuti dal club. Naturalmente. Roberto, ti chiedo ancora questo, tornando alla Juventus: hai la sensazione, vedendo le ultime edizioni, le ultime tre edizioni della Juventus e soprattutto sentendo parlare ieri Ranieri, hai la sensazione che in questa diatriba sotterranea all'interno dello spogliatoio juventino la vecchia guardia abbia vinto la sua partita? Ma sai, abbia vinto, se pensi al fatto che Giovinco è stato respinto in panchina, ma non penso che fosse quello il nocciolo, cioè penso che ci fosse un problema, poi se Marchisio si è infortunato, tanto, sì. Tanto per cambiare, magari c'erano anche dissapori fra Ranieri e Nedved e Del Piero. È chiaro che sai, la Juventus i campioni li ha nella vecchia guardia. Gli altri devono dimostrarlo di diventare. Certo, la Juventus ha avuto nella sfortuna dell'incidente di Trezeguet, ha avuto la fortuna di prendere quella Mauri che insomma le sta dando una grossa mano. Però nessuna squadra, Carlo, è avulsa da crisette di spogliatoio più certo. o meno conclamate, più o meno grandi, più o meno urlate, capite? È chiaro che la Juventus per convenzione si dice sempre tutto vi resta in famiglia, a volte no, e comunque ricordi sempre il vecchio detto di Boniperti: a volte si può entrare in crisi perché ci si insulta poco, non perché ci si insulta troppo. vero come il Vangelo questo, caro Roberto, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Roberto Beccantini. Io sono rimasto in debito naturalmente della classifica della Serie B, quindi chiudiamo questa prima parentesi, ma poi dedicheremo alle voci del calcio, alle voci della vigilia, tutta l'ultima parte del nostro programma. Chiudiamo però questa parentesi con la classifica della Serie B. Alla luce dei risultati che vi ho letto prima e dopo 12 turni abbiamo ancora Grosseto e Empoli in testa con 21 punti, però a questo punto il margine si assottiglia nei confronti delle più immediate inseguitrici, che sono Vicenza, che sta facendo un campionato straordinario contro ogni pronostico e ogni previsione, Vicenza, Sassuolo e Bari a 20 punti. A 19 troviamo il Brescia, quindi Parma, Albino Leffe, Salernitana 18, Triestina 17, Ancona, Livorno, Pisa, Mantova, Frosinone, centro classifica affollatissimo a 16 punti, quindi Piacenza 13, Cittadella e Rimini 11 con 9 punti, Ascoli e Avellino con 7 punti, Treviso e Modena. Ci sono ancora due partite da giocare, verranno giocate lunedì con inizio alle 19 Ascoli e Rimini e con l'inizio alle 21 invece Livorno-Brescia. Palla ovale. Pallovale si chiama il nostro programma, anche se abbiamo preso l'abitudine di divagare intorno a tanti temi sportivi di cronaca, però trattandosi di pallovale secondo me vale la pena anche ricordare, l'abbiamo fatto in apertura, lo facciamo ora che siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, anche i risultati della giornata di campionato nel rugby, prima di tornare a parlare di calcio, e sono questi sorprendenti, anche interessanti, con il Femici Zeta Rovigo che batte di un punto la Montepaschi Viadana, perdono entrambe le capoliste proprio come in Serie B, come nella Serie B del calcio, 24-23. Si rialza un po' Calvisano che batte 19-3 il Carrera Petrarca a Padova, quindi c'era il derby romano, l'Almavia Capitolina ha a lungo accarezzato il sogno e la speranza di vincerlo, è stata sempre in vantaggio in pratica, superata però al photo finish 14-13 per il Futura Park Roma. Il Gran Parma batte 26-15 il Casinò di Venezia, l'altra grande sorpresa di giornata, beh, sorpresa relativa perché l'Overmack è una signora squadra, però i parmigiani che vincono sul campo del Benetton Treviso 27-9. Dalla settimana prossima spazio alla nazionale, dunque campionato che per qualche settimana si ferma, Con questa classifica Benetton 21, Montepaschi Viadana 20, Overmac 19, Femici Z, Rovigo 18, 17 c'è Calvisano, quindi coppia 12 con Carrera Petrarca e Futura Park, Roma, Casino di Venezia 10, Plusvalore Gran Parma 9, Alma Viva Capitolina che resta ultima con 2 punti. Ci avviciniamo anche all'inizio invece, all'inizio di Regina Inter, partita che forse potrà decidere il futuro di Nevio Orlandi sulla panchina dei calabresi. Molto delicata questa gara per i calabresi, ma molto delicata anche per l'Inter e per Mourinho, per questa sfida a distanza che è stata poi inopinatamente innescata in settimana tra il rendimento dell'Inter del portoghese e quella di Roberto Mancini, che insomma ho visto c'è un'intervista su un periodico non sportivo e non calcistico, Mancini che nulla dice in realtà se non il fatto che insomma senza calcio non sta benissimo e che il fatto di dover guardare le partite in TV è per lui uno shock, però non ha voluto assolutamente dribblato come ai bei tempi l'argomento Inter e l'argomento Mourinho. Mourinho che è intenzionato, ha deciso, è ufficiale, di presentare a Reggio Calabria un Inter a trazione anteriore. Comunque un Inter in cui finalmente si rivede Mario Balotelli dal primo minuto. Balotelli e Ibrahimovic con Mancini e Quaresma, si insiste su Quaresma, sulle fasce. Ma io direi di cominciare a sentire un po' di voci di questo prepartita e di questa vigilia di una giornata di Serie A che si concluderà con la partita più attesa, e cioè l'attacco del Napoli al Milan domani sera a San Siro, per un Napoli che vuole continuare a sognare. E allora partiamo proprio dalla vigilia di Eddie Reia, che da primo in classifica presenta così la partita di domani. Adesso stiamo bene fisicamente, stiamo bene moralmente, bene, sappiamo benissimo che andiamo ad affrontare una squadra in crescita, adesso ho recuperato un po' tutti i giocatori anche dal punto di vista fisico, anche moralmente, viene a risultati positivi, e poi sappiamo e conosciamo tutto il potenziale di questo Milan. Noi bisognerà fare sicuramente una partita senza nessuna sbavatura, senza nessun errore in fase difensiva in modo particolare, perché lì davanti ci sono, non so chi giocherà, ma ci sono giocatori che quando ti affrontano uno contro uno insomma sono capaci di saltare tutta la barriera difensiva. Bisogna stare molto attenti e cercare di ripartire e mettere in mostra e mettere in campo tutte le nostre qualità. Io ho giocatori che possono, perché tutte le volte che ho impiegato uno o l'altro non abbiamo mai avuto nessuna difficoltà, la squadra non ha mai risentito, pertanto sono tutti giocatori che partono alla pari, e poi domani prima della gara deciderò in base anche chiaramente considerando le caratteristiche del Milan. Maria dice anche cose molto interessanti a proposito degli obiettivi realistici del suo Napoli, perché adesso la fantasia al potere, De Laurentiis si è fatto prendere la mano e parla di possibilità di scudetto, più realisticamente di idee di Champions League. Eddie Reia invece ha parlato in maniera un po' più realistica delle prospettive del suo gruppo, pur descrivendone benissimo le caratteristiche. Sentiamolo. So benissimo la forza che ha questa squadra, è chiaro che è piacevole vederla come sta crescendo, come sta tenendo il campo e soprattutto come sta giocando. Abbiamo questo spirito giovane, auguriamoci che possa durare il più lungo possibile. È bello vedere questa squadra come entra in campo senza nessuna remora, senza nessun problema, e gioca così a viso aperto con tutti quanti, dimostrando di avere buone doti. Adesso poi per vincere il campionato penso che non siamo ancora attrezzati, rimandiamo di qualche anno insomma questo obiettivo. Auguriamoci di stare il più lungo possibile in questa posizione, so benissimo che sarà difficile, però bisogna crederci e lavorare come stiamo facendo, e soprattutto chi va in campo, i giocatori, il gruppo, insomma, perché non è mai uno singolo che può vincere. Se la squadra cresce come sta dimostrando di crescere in questo momento, è chiaro che è bello cavalcare così le posizioni alte della classifica. È bello altro che cavalcare le posizioni alte della classifica. Adesso andiamo sull'altro tema a cui abbiamo fatto riferimento, che abbiamo accennato, cioè quello di Mourinho e del paragone con Mancini, perché se non l'avete ancora sentito vi riproponiamo quello che in proposito ieri ha avuto da dire José Mourinho a proposito appunto di questa differenza di rendimento vera, reale, presunta, comunque molto chiacchierata tra la sua Inter e quella di Mancini. Sentiamo Mourinho. Quanto punti aveva il Napoli, quanto punti aveva l'Udinese, dove era la Juve che ritornava da seconda divisione, dove era il Milan che giocava Champions League e adesso gioca UEFA, dove erano tutti gli altri. Solo una persona malintenzionata vuoi paragonare, ma se vogliamo paragonare, paragoniamo. L'anno scorso in 1 di novembre aveva perso la Supercoppa, ha vinto la Supercoppa, non aveva vinto nessuno titolo. Noi abbiamo vinto uno. Aveva perso la prima gara di Champions League e era in difficoltà. Aveva quanti punti più di noi in questo momento? 3 o 4 o 5 o 15 o 20? 3, 4 o 5. Se vuoi paragonare possiamo paragonare. Ma io penso che prima di tutto è impossibile paragonare. Le paragoni non sono mai vere quando si paragona in situazioni così. Nel fine di maggio io ritorno qua, mi sento in questo tavolo qua e vai là con meno freddo e tutti un po' più felici e dopo parliamo. Insomma, tutti i torti non ce li ha se si parla di classifiche, statistiche e numeri, no? Mi pare Mourinho, non so come la pensate voi. Ma voglio farvi sentire anche cosa ha detto a proposito delle recenti purghe che hanno lasciato ancora a casa, lo sapete bene, Adriano, anche lo stesso Cruz, ufficialmente Cruz almeno per problemi, Adriano dichiaratamente per questioni comportamentali, Cruz invece c'è di mezzo un piccolo infortunio, comunque anche lui non va a Reggio Calabria, non andrà a giocare a Cipro in Champions League. Mourinho. Se qualcuno si è dedicato a Adriano, si è dedicato del cuore, non solo come allenatore, ma anche come un compagno di lavoro, come qualcuno che lavora nello stesso spazio che un altro, se qualcuno l'ha fatto sono stato io. Arriva un momento in che io sono leader di un gruppo di 29 giocatori, dove ci sono regole e dove un allenatore non può, nella mia opinione, mai avere un giocatore speciale, un giocatore diverso, un giocatore che può fare de cose che l'altro non puoi fare. I giocatori devono capire che questo per me è fondamentale. È facile, se qualcuno di voi mi fa la domanda adesso, sarebbe Adriano un giocatore importante per la partita di domani? Sì, sì, ovviamente sì. Ma per me è più importante il rispetto dei professionisti per con il gruppo e per con la società. Non è impossibile. Non è impossibile ritornare, ma ci sono delle cose che per me io non posso accettare. Così Mourinho e l'Inter tra 5 minuti in campo a Reggio Calabria. Abbiamo tempo ancora per un ascoltatore che è in linea, Francesco da Piacenza. Buonasera. Buonasera, ciao Carlo, sono ciao. Francesco da Piacenza, complimenti per il tuo programma. Io ho già assistito a Parma Piacenza, ti volevo un tuo giudizio su questi arbitri di 6-7 anni in Serie A, tipo Trecoloni, che puntualmente arrivano in Serie B e snobbano le partite e ne combinano di tutti i colori. Poi se uno si permette di dire una parolina, va, lesa maestà. Sì, a tutti i torti non ce li hai, caro Francesco, probabilmente. Beh, forse ad esempio Trefoloni sarebbe il caso di farlo arbitrare un po' più spesso in Serie B, anche viste le ultime esibizioni, se non altro per allenarsi. Poi se si sente leso nella sua maestà per una parolina di troppo sono fatti suoi. Però insomma credo sia forse un episodio isolato, non credo che arbitri un po' più seri, tra virgolette, snobbino l'evento Serie B, che comunque è un campionato molto difficile anche tecnicamente da arbitrare, e gli arbitri lo sanno benissimo. Noi dobbiamo fermarci qui, però io sono certo che nel GR, dunque mancano 2 minuti e 50 secondi alla fine delle prove per la griglia di partenza in Brasile. C'è Massa davanti a tutti. Non è ancora definitivo il risultato, però io credo che nel GR riusciremo a darvi la griglia di partenza brasiliana. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunta in regia.